America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Io faccio appello ad uno spirito di coesione e di solidarietà che non deve mancare in questo momento. Avete sentito, il nostro Presidente della Repubblica ha lanciato ieri un appello alle regioni italiane perché si assumano ciascuna la propria responsabilità accogliendo una buona parte dei nuovi immigrati da Lampedusa e ha lanciato lo stesso appello all'Europa perché esprima soprattutto per se stessa, in fondo, maggiore solidarietà con questo nostro problema italiano, quello di essere la prima sponda per rifugiati politici, clandestini, disperati in fuga da una guerra o dalla fame che attraversano poi il Mediterraneo cercando la speranza europea sulle nostre spiagge. Il messaggio del Presidente della Repubblica è chiaro, il problema dell'immigrazione non può essere limitato alle sponde che per casualità geografica si trovano sulle rotte di barconi carichi di immigrati illegali, il problema è più vasto. In effetti il problema è molto più vasto. Our job is to create secure borders, to make sure that we've got a legal immigration system that is effective and is not frustrating for families, doesn't divide families, but we also have to make sure that those who are in the United States illegally at this point, but in some cases have been there for a long time, in some cases have children who were born in the United States and are United States citizens, that they have a pathway to get right by the law. Avete sentito il presidente Barack Obama? Anche lui ha un problema di immigrazione, di immigrati illegali. In America sono circa 12 milioni, alcuni di loro, pensate, addirittura pagano le tasse, ma questi 12 milioni vorrebbero diventare cittadini americani. Non riescono. Già il presidente George W. Bush organizzò un programma, un progetto per poter legalizzare la loro posizione e suggerì che ciascuno di loro tornasse a casa per poi rientrare negli Stati Uniti in modo legale. Su questo sembrava che tutti fossero d'accordo, poi George W. Bush non riuscì a far nulla. Adesso ci sta provando il presidente Barack Obama. Ancora la questione non è stata oggetto di dibattito, di discussione al Parlamento, al nuovo Parlamento controllato dai repubblicani, ma è chiaro che così non si potrà andare avanti con questi 12 milioni di immigrati illegali, soprattutto sudamericani e centroamericani. Il problema, come sappiamo, in America è un problema che si snoda lungo i confini meridionali, dove in continuazione immigrati clandestini passano, dove i locali vorrebbero erigere delle barriere per non far entrare questi immigrati illegali, che poi che fanno? Scavano un tunnel e entrano da sotto. C'è stata la proposta di legge polemica, dura, difficile dell'Arizona, poi copiata da altri stati, secondo cui se qualcuno viene fermato e non ha dei documenti legali viene espulso immediatamente, viene portato in un centro di detenzione, si recuperano i suoi familiari anche se sono nati negli Stati Uniti, oppure se alcuni sono nati negli Stati Uniti e vogliono restare, si spaccano le famiglie. Il problema dunque è un problema mondiale, è un problema di nord contro sud. Il tutto naturalmente si traduce in tensioni, tensioni a Lampedusa, tensioni in Italia, tensioni in America, proteste di ogni genere. Posso raccontarvi che a Long Island, vicino a Southampton, che è uno dei posti di villeggiatura più inseguiti da New York perché si affaccia su queste splendide spiagge sull'Atlantico, ebbene ci sono una gran quantità di immigrati illegali, di sudamericani, dal Salvador, dall'Ecuador, dal Perù, i quali fanno i braccianti, e c'è un 7-Eleven, una specie di bar dove queste persone si riuniscono e al mattino si vedono i giardinieri o addirittura i proprietari di case che vanno, ne caricano due o tre, li portano a casa per poter lavorare. Ecco, anche lì c'è stata una protesta di alcuni locali che ritengono che il loro lavoro viene in qualche modo rubato, e dunque si creano forti tensioni. They're coming from, you know, in terms of Europe, it is the top half of Africa, but also parts of the East and of the European Union. Ne ho parlato di questo problema globale, perché, ripeto, è un problema di nord contro sud, con Demetrios Papademitreou, che è il cofondatore, presidente del Migration Policy Institute, un think tank a Washington dedicato alla prevenzione dei problemi migratori. E la sua conclusione alla fine non è molto diversa da quella che ha raggiunto il nostro Presidente della Repubblica. Il problema è per noi soprattutto un problema europeo. L'Europa è ferma, non riesce ad esprimere, mi disse, come dovrebbe un approccio coerente, e tanto più che il pericolo non può che aumentare, visto che se la rivoluzione democratica nel mondo arabo allargherà il suo contagio, beh, è chiaro che la situazione non potrà che peggiorare. E allora a quel punto davvero il problema sarà europeo, perché se ci saranno rifugiati dalla Siria, per esempio, beh, magari passeranno attraverso la Turchia per arrivare in Europa, e quindi i cancelli di ingresso saranno da più parti. Il rischio che noi corriamo se non si fa qualche cosa è il rischio non di avere migliaia di immigrati illegali, ma è il rischio di un esodo con decine di migliaia, forse persino con centinaia di migliaia di emigrati. Non può l'Italia, le singole regioni italiane, dare uno spettacolo di incertezza e di divisione come si rischia di dare. Ecco, siamo tornati alle dichiarazioni del Presidente della Repubblica, dichiarazioni, devo dire, che quando lo abbiamo sentito ieri erano corredate da un forte significato simbolico e da una certa emozione, perché il Presidente ha parlato da Ellis Island, un isolotto nel porto di New York, subito prima di Liberty Island. Forse qualcuno di voi che è venuto qui a New York, in America, la ricorda Liberty Island, dove c'è la Statua della Libertà. Quindi siamo nel pieno del porto di New York e Napolitano è arrivato in questo isolotto a sua volta in barca. Era una giornata freddissima, devo dire tanto fredda quanto tersa e luminosa, ed è arrivato per rendere omaggio ai 4 milioni di immigrati italiani che fra il 1892 e il 1952 dovettero transitare per questi palazzi, questi cortili squadrati che sono sull'isola, come prima tappa, prima di poter varcare i cancelli del sogno americano. Come loro, altri 8 milioni di immigrati da altre nazioni sono passati per gli stessi cortili, per gli stessi palazzi, dove oggi c'è il più importante museo sull'immigrazione d'America, dove c'è un programma informatico, pensate, che ricostruisce legami familiari, provenienza, destinazioni di un secolo fa. E dunque i commenti di Napolitano, quando rivolge il suo pensiero a Lampedusa e al problema dell'immigrazione illegale, non sono casuali. Il tono è fermo, l'appello a tutti, governo incluso, per fare qualcosa subito, perché dice: se arrivano da Lampedusa sono notizie che parlano di una situazione inaccettabile, e quindi bisogna intensificare, già si sarebbe dovuto farlo nei giorni scorsi, intensificare l'afflusso di mezzi che possano portare via da Lampedusa una parte, una gran parte di coloro che sono sbarcati lì. Il Presidente, prima di partire, rientrerà oggi in Italia, ha concesso un'intervista a Maria Bartiromo della CNBC. Ne ha approfittato per rassicurare un pubblico di esperti economici e finanziari che seguono la rete, una rete soprattutto finanziaria, spiegando che l'Italia, dal punto di vista della crisi debitoria, è al sicuro. Dunque, qualche parola di rassicurazione. Infine, di nuovo, un messaggio a Gheddafi. Il colonnello, ha detto, è delegittimato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Britney Spears ha confermato le voci di un suo prossimo tour estivo. A giugno, ha detto, sarò in tournée con Enrique Iglesias. L'annuncio è arrivato in contemporanea con la presentazione del suo settimo album Femme Fatale. Ascoltiamo l'ultimo single di Britney Spears, Till the World Ends. Yeah.